Speciale rugby test match. Appuntamento del sabato con i test match di rugby. Sentiamo com'è andata per l'Italia. La storia dello sport italiano oggi passa da qui, dallo Stadio Franchi di Firenze, dove l'Italia del rugby ha battuto per la prima volta una delle tre grandissime dell'emisfero sud. Gli azzurri hanno superato 20-18 il Sudafrica, mostrando di avere testa, fisico e carattere. Il primo tempo è finito 12-10 per gli ospiti, che hanno occupato a lungo la metà campo italiana, dovendo però fare i conti con una difesa che in alcuni casi è andata oltre l'immaginabile. A inizio ripresa l'espulsione temporanea di Fuser avrebbe potuto far crollare la nostra diga, ma non è stato così. E nell'ultimo quarto d'ora, dopo che si erano portati sul 20-18, Parisse e compagni sono stati più lucidi e propositivi degli Springboks, sfiorando anche la terza segnatura del finale. Il conto delle mete invece è rimasto pari, 2-2 con Van Schalkwyk e Venditti, che hanno replicato ad Abana e De Allende. Poco male, perché il match è andato a una grande Italia. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze. Speciale rugby test match. In collaborazione con... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione.